24 mattino, estate, di Gigi Donelli. 7:22 minuti, buongiorno a tutti da Gigi Donelli, da Peter Bescapè in regia questa mattina. Avete sentito, Dario Ricci ci ha appena fatto il racconto, uno dei racconti di giornata, concentrandosi giustamente sul nuovo oro italiano, sui successi, sui programmi, sulle voci dei nostri atleti. Ma ai Giochi Olimpici di Londra, 30ª edizione dell'era moderna, ieri è successo anche qualcos'altro. È stata in qualche modo spezzata la maledizione che gli inglesi cominciavano a pensare di avere addosso, con tanto di giochini e espressioni curiosi legate appunto al primo ministro. Eton, culla del canottaggio, ieri gli inglesi hanno trovato quello che già viene definito l'oro perfetto. L'oro perfetto perché è rowing, quindi canottaggio, gli inglesi, grande passione, quante volte magari anche senza conoscere nemmeno le regole dello sport ci siamo soffermati a vedere le immagini di queste barche che filano appunto nelle classiche sfide tra le grandi università. Lo hanno fatto dunque a Eton, l'hanno fatto una coppia di donne, Helen Glower e Heather Stanning. La Stanning in particolare è una soldatessa, è una donna che ieri ha avuto il sostegno letteralmente di una nazione e il tifo proprio sulle sponde del bacino dei suoi commilitoni. Partirà per l'Afghanistan a comandare un plotone già non molto dopo le Olimpiadi. Insomma, l'inglese che torna a Londra dopo un inizio in sordina, l'inglese che arriva invece in Italia nelle università questa mattina intorno alle 8:30. Parleremo della scelta del Politecnico di Milano di introdurre dal 2014 l'obbligo della lingua inglese per i bienni specialistici, scelta che sta facendo rumorosamente discutere intellettuali, mondo accademico. Lo faremo con il rettore del Politecnico di Milano, il professor Giovanni Azzone, ed altri ospiti, allora, per capire se è una scelta giusta, per alcuni addirittura doverosa, per colmare i ritardi, diciamo, del nostro paese, o per rafforzare anche, abbiamo parlato già più di una volta di università in questa settimana, la nostra capacità di trasformare il nostro curriculum di studi in lavoro. Questo il tema, prima con un londinese puro sangue, un giornalista che da Londra ci racconterà, immagino, la soddisfazione per questo successo. Non è l'unico, ma poi ne parliamo, ma anche, come dire, la visione londinese, dei londinesi, sui loro giochi olimpici. Tutto questo a partire dalle 8:30 come di consueto, con il vostro contributo alle telefonate, con l'800 24 00 24, se volete partecipare. Ma adesso è tempo di rassegna stampa. Eccoci qua dunque, la nostra mattina di un giorno importante. Infatti è il giorno delle decisioni, insomma, della grande riunione della BCE. Dico grande perché in realtà il perimetro è quello ovviamente ordinario, ma sono le aspettative molto forti. Dunque, borse volatili, spread BTP e Bund in forte discesa alla vigilia della riunione, dunque, della Banca Centrale Europea, in programma oggi pomeriggio. Cosa dovrebbe accadere? Dovrebbe la BCE lanciare la strategia d'attacco contro la crisi del debito sovrano in Europa. Licenza bancaria, fondo salva stati, nuovo programma di acquisti di titolo di stato, liquidità per le banche, aiuti diretti ai paesi in difficoltà e taglio dei tassi, i temi sul tappeto, tutti i temi che vengono oggi affrontati. E qui cominciamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore, dai quotidiani. Il Sole dedica diverse pagine appunto di approfondimenti, di interviste su questa giornata particolare. Sole che peraltro, e qui arrivo davvero alla prima pagina, vi ricordo, continua l'iniziativa che viene segnalata nel taglio alto, l'enciclopedia del risparmio, dunque la lettera B, e si parla proprio tra l'altro di BOT e BTP, dunque

che già c'è e che dipingerà probabilmente sempre di più, appunto, il nostro tempo, la presenza cinese. Abbiamo concluso, noi ci risentiamo alle 8:20, ripartiamo da Londra, Londra che finalmente festeggia gli ori. A più tardi. 24 mattino, estate. Buongiorno ancora una volta da Gigi Donelli, da Elisabetta Fusconi in assistenza, da Peter Bescapè in regia. Un ricorso al TAR della Lombardia contro la decisione approvata dal Senato accademico di trasformare tutti i corsi del biennio magistrale in lingua straniera dal 2014. Ricorso ovviamente contro, ne parliamo tra una decina di minuti circa. Voi cosa ne pensate? L'università deve fare questo salto complicato indubbiamente verso la lingua inglese? Diteci cosa ne pensate all'800240024 o come sempre via sms al nostro 349-238-6666. L'inglese dunque della discordia nel caso milanese e poi andremo anche oltre, ma io oggi voglio parlare di un altro inglese ed è quello che titola oggi Evening Standard, prendiamolo dal web, London 2012 Olympics, dunque Olimpiadi 2012, gold at last, quindi finalmente l'oro. E questa è la notizia che ci porta proprio dalle parti dell'Evening Standard. Con noi questa mattina un giornalista, esperto militare, ma anche un Londoner, un londinese, che dunque ci può raccontare come si vive, come si respira a un terzo del percorso, perché questa mattina, pensate, siamo arrivati al primo terzo. 77 dei 229 eventi previsti per i giochi olimpici sono stati disputati. Buongiorno dunque a Robert Fox, grazie di essere con noi. Buongiorno. Allora Robert, gold at last, e che gold possiamo dire? E cominciando dal primo in ordine di apparizione, canottaggio, cosa di più inglese di vincere una medaglia d'oro ad Eton, almeno visto da qui? Ma è un... scusate. Prego Robert. Mi senti? Ti sentiamo bene. Queste due ragazze che hanno vinto un canottaggio di doppio, si dice in inglese un pair, è molto interessante perché è la prima volta che due donne inglesi hanno vinto in questa disciplina. Una delle ragazze è un'insegnante molto brava, ma ha imparato il canottaggio solo 4 anni fa. L'altra è una soldatessa, è un capitano dell'artiglieria con i suoi compagni, sono ancora in questo momento attualmente in campo in missione in Afghanistan, e abbiamo avuto queste bellissime immagini del gruppo in un tente in Afghanistan, e urlavano quando hanno visto sulla televisione in diretta la vittoria, la famosa vittoria 2 millimetri, canottaggio di pairs. Insomma, due donne che coinvolgono nazione, due donne che vincono a Eton. Oggi i quotidiani italiani, alcuni titolano: due donne profanano Eton, vincono dove le donne non sono ammesse. È un aspetto... No, questo non leggenda. È giusto, perché anche il famoso Eton ogni tanto fanno fare le cose molto molto interessanti con le ragazze non così privilegiate, fanno corsi, è un po' più aperti, non sono tutti inglesi molto snob in questa direzione. No, d'accordo, quindi insomma ci sono molti elementi, ecco, poi non dimentichiamolo, ieri questo primo oro e poi quello che ormai è l'oro del fenomeno di Bradley Wiggins, dopo uno straordinario Tour de France vinto come primo suddito di Sua Maestà la Regina Elisabetta II nella storia, si va a prendere un oro che a questo punto è molto atteso. Davvero una giornata di svolta per le fortune olimpiche e britanniche, che tra l'altro proprio nel giornale per cui Robert Fox lavora ci ricorda la classifica degli ori di questi giorni, che vede la Cina davanti a tutti, gli Stati Uniti, e ci ricorda anche una bella Italia in settima posizione, undicesima per ora il Regno Unito. Ma Robert, parliamo dei giochi olimpici nel suo complesso. Naturalmente è un'organizzazione enorme, la preoccupazione, si parlava all'inizio molto di tempo, di viabilità, di traffico impazzito. La sensazione è che molte di queste cose debbano essere riconsiderate. Qual è la situazione a Londra? Sì, nel centro storico, vicino a questi famosi posti, il Trafalgar Square e il posto dove si fa il famoso beach volleyball, è quasi un deserto. Perché hanno avvertito che è perfetto troppo, per il beach volley, peraltro. Sabbia dunque, quasi un deserto addirittura. Sì, sì, perché non c'è traffico, c'è traffico leggerissimo, non ci sono mezzi pubblici affollati, bloccati, e tutti questi avvertimenti che abbiamo avuto da un anno hanno detto: oh, lavoratori di Londra, dovete stare a casa. E questo è un disastro, perché per quanto riguarda il commercio, sia in ristorante che hotel che altre poste, sono mezzo vuoti, quasi tutto. E questo è un po' allucinante, è un po' disastro, anche perché le autorità hanno insistito troppo. È da un anno dunque che, come dire, le autorità dicono: state alla larga dal centro di Londra, e sono state a quanto pare prese abbastanza alla lettera. I dati confermano, insomma, adesso il deserto che ci ha descritto, quasi deserto naturalmente, Robert Fox, in una città che normalmente è sempre così ricca, vivace, internazionale. D'altra parte tutto questo, come dire, ha scongiurato tutta una serie di problematiche, proprio i trasporti. Sembrava che si parlava dell'impossibilità di raggiungere i luoghi delle prove sportive. Niente di tutto questo? No, assolutamente. Lunedì scorso, che era il primo giornata di lavoro, cioè in settimana, tutti funzionavano nella mia memoria per la prima volta a Londra, perché sempre a Londra succede qualche disastro, piccolo disastro, sia col metropolitano che col autobus o i tassisti, eccetera, ma funzionavano come una Rolls Royce. vorrei dire anche che posso dare una raccomanda. Una raccomandazione, fatto certo. Sconti incredibili per quanto riguarda gli alberghi, posti di divertimento per questo weekend. Italiani, venite, perché non sarebbe mai così di buon prezzo l'offerta. Un appello letteralmente da una Londra deserta, ovviamente esagero e sorrido, che diciamo condivido l'ironia del nostro amico collega Robert Fox. A proposito di ironia, Robert, queste Olimpiadi sono state aperte nel segno dell'ironia, di quell'ormai leggendario spot della regina Elisabetta e James Bond, che, insomma, di cui si parlerà credo per anni. Un altro aspetto che oggi viene sottolineato, e si parla qui sui quotidiani italiani, di sconfitta la maledizione di Tutankhamon. Tu hai parlato del beach volley, so che sulla stampa inglese si è scherzato parecchio sul fatto che appunto Cameron avrebbe visto dalle sue finestre il beach volley. So che questa storia della maledizione del premier rispetto agli ori olimpici è stata sottolineata più di una volta. Adesso tutto risolto per lui? Sì, ma non è il suo gioco. Questi sono i giochi dell'ironia, e tu hai ragione su questo, perché è tutto un scherzo, e questo è molto molto intelligente, perché gli inglesi hanno pensato: dopo Beijing non possiamo fare una festa così grande, così stravagante, così costosissima. E così abbiamo fatto un po' delle cose che noi facciamo benissimo, un po' di teatro, un po' di scherzo, un po' di cabaret. E questa cerimonia all'inizio dei giochi fu un stupendo cabaret, assolutamente all'inglese, pieno pienissimo di ironia. Era un joke. Un grande joke spettacolare cui abbiamo assistito in tutti gli angoli del globo. E dunque grazie a Robert Fox, lo ricordo, Robert Fox è giornalista, esperto militare, ma naturalmente londinese come ho detto, dunque attento e protagonista tra i molti appunto suoi concittadini di questo grande gioco olimpico, gioco joke come ci ha spiegato. Grazie di essere stato con noi. Allora sono le 8:30. Intanto tra qualche momento andiamo a parlare, invece torniamo in Italia. L'inglese qui è causa di guerra, come titola per esempio Repubblica questa mattina al Politecnico, un ricorso, vi ho detto, al TAR della Lombardia contro la decisione approvata dal Senato accademico di trasformare tutti i corsi del biennio magistrali in lingua straniera dal 2014. Dateci il vostro parere all'800 24 00 24. Torniamo tra un momento. 24 mattino, estate. 8 e 33 minuti in questo istante, ancora un buongiorno da Gigi Donnelli. Dunque il tema l'avete colto, vedo sul 349-238-6666 arrivano già messaggi su questo aspetto. C'è chi scrive: in Turchia le lezioni universitarie sono in inglese, non a caso la Turchia oggi vola come sempre in Italia. Qualcun altro scrive: l'Italia invece di cogliere le opportunità si preferisce mettere la testa sotto la sabbia. Insomma, il tema della discordia, come vi ho detto, un ricorso presentato al TAR della Lombardia contro la decisione approvata dal Senato accademico di trasformare tutti i corsi del biennio magistrale in lingua straniera dal 2014. Con noi questa mattina il rettore del Politecnico di Milano, professor Giovanni Azione, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Professore, una prima richiesta, ci chiarisca che cosa significa tutti i corsi del Politecnico dal 2014 in inglese. Dunque, noi facciamo riferimento alle lauree magistrali, quindi al più 2 cosiddetto, e al dottorato di ricerca. Quindi nei nostri due livelli più avanzati della formazione la lingua ufficiale di insegnamento sarà l'inglese. Fase avanzata, dunque, siamo nella, diciamo, nella parte appunto avanzata della formazione dopo il triennio, e la decisione nasce, immagino, dall'esigenza duplice, cioè da una parte riguarda richiamare gli studenti stranieri, ma riguarda anche la formazione dei nostri studenti. Insomma, quali le ragioni della scelta? Ma direi riguarda soprattutto la formazione dei nostri studenti. Noi ci siamo resi conto che nel contesto attuale il mercato del lavoro richiede persone che abbiano la capacità di operare in contesti internazionali, quindi sappiano lavorare in gruppi di progetto in cui ci sono cinesi, iraniani, vietnamiti, americani, svedesi, e quindi è fondamentale rendersi conto, e se possibile fin dalle aule dell'università, di come interagire con queste persone che hanno approcci ai problemi diversi dai nostri. Allora, sperimentare la propria professionalità già nelle aule dell'università, crediamo, dia ai nostri ragazzi la possibilità di avere una tu in più per il mercato del lavoro. Quindi non tanto appetibilità, come è stato scritto, richiamare, diciamo, il cliente studente straniero, ma preparare gli italiani a uscire dal perimetro appunto demografico linguistico che inevitabilmente poi è quello dell'Italia, perché a parte, sì, il Ticino, la nostra lingua. Sì, e devo dire, io un paio di settimane fa ero a una riunione di lavoro in una media impresa lombarda e c'erano 10 italiani e un tedesco e si parlava tranquillamente in inglese senza porsi molti problemi. È una lingua franca che ci aiuta a conversare su progetti che riguardano ormai le nostre imprese. Ecco, professore, 300 firmatari contro. Innanzitutto le chiedo quanti studenti, quanti docenti al Politecnico? Dunque, il Politecnico ha circa 1400 docenti e circa 40.000 studenti. Quindi 300 che firmano contro sono tanti? Sono tanti, su 1400 sono circa il 20%, devo dire ce ne sono l'80% che non ha firmato contro. L'80% che non ha firmato contro. Allora, tra le segnalazioni che arrivano adesso attraverso i nostri SMS, c'è chi ci dice, per esempio, se ci impegnassimo tutti se le istituzioni ci insegnassero bene l'inglese, potrebbe andare anche bene il corso di lingua. Cioè, in questo io vedo anche una parte che credo sia parte della preoccupazione di chi è contro, cioè come affrontare una situazione professionale che imporrà dal 2014 l'insegnamento in inglese. Ma guardi, rispetto agli studenti devo dire che problemi non ce ne sono molti, nel senso che tutti i rappresentanti degli studenti hanno condiviso questa scelta. L'abbiamo fatto proprio a partire dal livello più avanzato, in modo che durante il triennio, che si continuerà a fare in italiano, prevediamo di avere una serie di strumenti di supporto per i nostri studenti, per cui anche chi non arrivasse al Politecnico già in grado di frequentare dei corsi, non parliamo di fare cultura classica, ma stiamo parlando di ingegneri e architetti in lingua inglese, abbia la possibilità di apprendere. Abbiamo un piano di convenzioni con strutture esterne, ovviamente l'Ateneo, per cui lo studente dovrebbe pagare una cifra dell'ordine di un euro per un'ora di insegnamento. Quindi credo che sia una disponibilità. Insomma, prezzi scontati. E sul fronte invece dei docenti, cui in realtà mi riferivo in particolare, cioè la preoccupazione, quindi posto di lavoro, come faccio a insegnare in una lingua che non è la mia? Ma guardi, per fare carriera oggi in ingegneria e in architettura è obbligatorio pubblicare a livello internazionale e la lingua di pubblicazione è in larga parte l'inglese, quindi partiamo già da una buona base. Nonostante questo e nonostante già oggi circa il 20% dei nostri insegnamenti alla laurea magistrale sia in inglese, abbiamo previsto un piano di formazione esteso a tutti i nostri docenti in modo da garantire a tutti la possibilità di essere nelle condizioni migliori per farlo. Quindi formazione che immagino partirà immediatamente, visto che l'appuntamento per il 2014 non è poi così lontano. Certamente, c'è già stata una gara per assegnare questa attività che non facciamo internamente, non abbiamo una scuola di lingua al nostro interno, è stato fatto un'attività di test per circa 300 dei nostri docenti che inizieranno l'attività formativa a partire dal mese di settembre. Ecco, con noi questa mattina anche Dario Braga, che è il prorettore della ricerca dell'Università di Bologna. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, agli ascoltatori, al collega Azzone. Ecco, siccome non vogliamo rimanere, come dire, confinati negli ambiti pure ampi del Politecnico Milanese, perché questo ci sembra che sia una questione più ampia che riguarda che riguarda l'accesso al lavoro, che riguarda la formazione, che riguarda la nostra cultura, dunque il nostro paese. Secondo lei, dunque, ha senso che un docente italiano insegni in inglese a degli studenti che possono essere non italiani, ma si suppone in massima parte italiani? Ma assolutamente sì, tenendo conto che non siamo politecnici in tutta università generaliste come quella in cui opero io, ha i dipartimenti giuridici, ha i dipartimenti delle scienze sociali e politiche, le scienze umane, la storia e la filosofia, dove forse il concetto di inglese come lingua franca è un po' più difficile da... Noi abbiamo una grande tradizione, siamo anche in grado di attrarre studenti da altri paesi e se vengono a studiare filologia qui a Bologna, delle due scelgono di imparare l'italiano per leggere i testi che gli interessano, no, di loro competenza. Quindi non ne farei, come ho scritto sul Sole qualche tempo fa, non ne farei una regola hard and fast, come dicono gli inglesi, però sicuramente condivido totalmente l'opinione, l'idea del rettore Azzone, che per mettere i nostri studenti, i nostri laureati, i nostri dottori di ricerca in condizioni di meglio competere nel mercato del lavoro è assolutamente indispensabile che da piccoli si confrontino con l'intero mondo. Quindi oggi la lingua franca accademica è l'inglese e quindi devono conoscere l'inglese. Non è l'unica soluzione, ecco, no, dico pure. Però è un passaggio obbligato. Tra gli sms che ricevo, domande come i docenti hanno un livello di inglese così elevato da poter insegnare, ma anche chi dice è assurdo pensare di cancellare la lingua italiana, non mi sembra questo il caso. Il nostro ascoltatore, che in questo caso scrive da Padova, dice non è per nazionalismo ma per non perdere l'identità, ci mancherebbe, l'identità è anche un altro problema. C'è anche chi scrive i figli dei ricchi non hanno bisogno di imparare l'inglese e questo è sicuramente un aspetto interessante, voglio dire l'inglese, la capacità di ampliare il proprio bacino di accesso al mondo del lavoro è naturalmente uno strumento democratico, sì, in senso questo, lato. Che questo sia un grande problema di questo paese lo si vede continuamente, basta girare l'Europa e non solo nei paesi di origine anglosassone, insomma già andare in Portogallo o in Spagna ci si rende conto di quello che è il livello di bilinguismo che uno incontra, perché non è necessariamente solo l'inglese che con il quale si fa un insegnamento accademico, insomma l'intera struttura dell'amministrazione richiede di diventare bilingue. Aggiungo di più, le nostre città hanno bisogno di diventare bilingue, molti dei nostri musei sono solo in italiano, cioè è la ospitalità, la ricettività, la capacità di attrazione da fuori verso dentro, la capacità di competere in questo che ovviamente sconta ritardi molto, cioè non è un problema di difesa della lingua italiana, guai mai, anche altri paesi sono molto gelosi della loro lingua e giustamente, ma è un problema semplicemente di sprovincializzare, di consentire ai nostri studenti di circolare all'interno di questo grande paesone che sta diventando l'Europa. Dario Braga, grazie per questo suo contributo. Ecco, a questo proposito, prima di dar voce a Ivan da Milano che attende pazientemente in linea, vi ricordo, ieri abbiamo parlato di turismo, ma poi siamo finiti a esplorare proprio in diretta alcuni siti. Una cosa che è emersa in maniera clamorosa è l'avanzare disordinato del nostro approccio sulla comunicazione extra lingua italiana, per cui alcune città, alcune località turistiche hanno 7 lingue, molte solo l'italiano. Questo diciamo elemento culturale che in qualche modo sottintende anche questa vicenda. Prima di tornare dal rettore del Politecnico di Milano per altre domande, sentiamo dunque gli ascoltatori. Ci chiama da Milano Ivan, buongiorno. No. Prego, ci dica. Mi sente? Sì, ci dica. Chiamo perché io sono un ex studente del Politecnico di Milano di ingegneria. E ho fatto anche un'esperienza all'estero in cui ho avuto dei corsi in lingua inglese. Che ne pensa dunque? In Svezia. E volevo dire che secondo me il fatto è che l'iniziativa che potrebbe portare avanti il rettore mi sembra giusta proprio perché è confinata in quella che è la laurea specialistica. Mi spiego, come giustamente diceva lui, se noi proponessimo un corso in inglese a un neolaureato che potrebbe aver avuto problemi di insegnamento al liceo eccetera eccetera, potrebbe essere problematico, ma siccome parliamo di una laurea che è tecnica, parliamo di una laurea che porta a un lavoro in un contesto internazionale, fare una laurea specialistica in lingua totalmente inglese può essere solamente un vantaggio per poi nell'inserimento nel mondo del lavoro. Da usare immediatamente. Grazie a Ivan da Milano. Ancora da Verona, Gilberto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Gilberto. Ci dica. Allora, io, come dicevo la sua collaboratrice, sono un cacciatore di teste e ho un studio di ricerca e selezione del personale. Lavoriamo a livello internazionale e devo dire che purtroppo la conoscenza delle lingue straniere, tutte, non solo l'inglese, dei nostri giovani e anche dei manager italiani è almeno imbarazzante. Per cui appoggio totalmente questa iniziativa e vorrei anche estenderla alla possibilità che non sia solo l'inglese come una lingua franca, ma anche qualche altra lingua. Che si vada oltre, dunque, due pareri decisamente positivi. Grazie a Gilberto che ci chiama da Verona. Dunque, torniamo con i nostri ospiti tra qualche istante, ora però è tempo di sentire come vanno le cose sulle strade. 24 mattino, estate. L'insegnamento in lingua inglese, la tutela, la protezione della cultura italiana, della lingua. Ci sono naturalmente altri paesi che hanno fatto i conti con queste tematiche, magari l'hanno fatto già qualche decennio fa. Questa mattina abbiamo con noi anche Art Ehring, che è addetto alla politica e ai rapporti con la stampa per l'ambasciata olandese. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Dunque, in Olanda avete avuto un problema analogo, se non sbaglio una ventina d'anni fa, perché un piccolo in termini numerici rispetto appunto, noi abbiamo parlato dei 67-70 milioni di italofoni, per quanto riguarda il vostro paese, in quanti nel mondo parlano l'olandese? Ma in Olanda poco più di 16 milioni, più 6 milioni di ecco, fiamminghi. Quindi arriviamo a 22-23, quindi il problema lo conoscete bene, ma l'avete affrontato in una modalità che ritengo molto interessante. Allora chiedo ad Art Ehring come funziona oggi l'insegnamento in una università, per esempio in una facoltà o in un corso politecnico olandese. Beh, dipende un po'. Adesso in Olanda l'insegnamento dei bachelor è quasi tutto in olandese, ma dai master la metà ormai è in inglese, e quando si parla di materie come agricoltura, materie tecniche, economia, quasi tutto. E questo, c'è stata una discussione sull'utilità di questo, non tanto, nessuno in Olanda pensa che perdiamo la nostra lingua, la nostra identità se all'università si insegna in inglese, questo no, però si dice sì, ma serve o non serve? E allora adesso la regola d'oro è che si insegna in olandese se non c'è un buon motivo di farlo in inglese, e quel motivo c'è quando il mondo scientifico internazionale usa quasi esclusivamente l'inglese, o quando ci sono molti studenti stranieri o professori stranieri, e questo l'abbiamo soprattutto nei master. Ecco, c'è anche una regola altrettanto aurea, mi sembra, che però imponga l'insegnamento della lingua olandese agli studenti stranieri. Sì, sì. E questo mi sembra un fattore interessante. Cioè, sì. Credo, mi corregga se sbaglio, si entra all'università pubblica, cito casi che ho seguito direttamente nelle università olandesi, si fa la domanda, le tasse sono interessanti, la qualità dell'università è alta, ok, a patto che facciate 5 esami nel primo anno di cultura e lingua olandese, giusto? Sì, questo è vero, perché l'inglese è anche un modo per attirare studenti esteri, e abbiamo volentieri studenti esteri, però noi vogliamo studenti bravi o restino in Olanda, o quando tornano nel loro proprio paese mantengano un legame con l'Olanda, perché creando così una specie di network di conoscenze, di piccoli ambasciatori in posti chiavi dell'amministrazione, dell'economia, della cultura del loro paese. Però per questo devono in certo senso sentirsi anche parte dell'Olanda. Quindi si lavora su di loro, si investe, perché poi stiamo parlando di università pubbliche con tasse anche molto interessanti, dicendo venite, cominciate a bagnarvi nella nostra cultura con una lingua che tradizionalmente non è proprio facilissima come accesso. È un deep investment, non ci servono studenti che vengono in Olanda solo perché studiare in inglese in Olanda costa meno che in Gran Bretagna o negli Stati Uniti e poi se ne vanno e buonanotte. Noi vogliamo che loro abbiano anche un po' di conoscenza dell'Olanda, dell'olandese, e che uno straniero può vivere benissimo in Olanda senza conoscere l'olandese, ma non può partecipare alla chiacchiera al bar, non capisce le battute, certo, non rimane può seguire fuori la TV, dalla vita quotidiana. Infatti, allora, su questo noi vogliamo che gli studenti entrino, e per quello la conoscenza chiarissimo dell'olandese siccome, è indispensabile. Grazie Art Ehring, siccome noi appunto le chiacchiere al bar in generale le amiamo, Rettore Azzone, ecco, questo aspetto io lo trovo interessante, perché un paese come funziona? Non è che facendo tutto il biennio in inglese arriveranno solo studenti stranieri che poi ripartono e via? No, devo dire che la ricetta olandese è esattamente quella che pensiamo di applicare noi, cioè noi prevediamo che soprattutto per gli studenti stranieri il periodo in Italia sia accompagnato da corsi di formazione all'italiano e alla cultura italiana. Obbligatori? Sì, per ora non lo sono, ma nella previsione che ha fatto il nostro senato accademico c'è l'introduzione dal 2014, quando il meccanismo viene messo a regime, sull'obbligatorietà. Quindi andiamo esattamente in questa direzione. Devo dire che uno dei meccanismi che ci ha portato a prevedere il passaggio da una situazione attuale in cui abbiamo percorsi paralleli in italiano e in inglese è stato proprio questo. Con i percorsi paralleli noi abbiamo i percorsi in inglese che sono prevalentemente di studenti stranieri, che quindi rimangono in qualche modo ghettizzati, non hanno la possibilità di entrare in contatto con la nostra cultura e la nostra lingua e con le nostre abitudini. L'avere l'integrazione tra questi due mondi credo che consenta anche agli stranieri di assorbire al meglio la cultura italiana e di essere al meglio nostri ambasciatori nel futuro. Professor Braga, come mai secondo lei questa levata, diciamo, di scudi in quello che sembra un progetto, come dire, ragionevole? Intanto c'è una certa tendenza patria a utilizzare gli strumenti giuridici e amministrativi per contrastare decisioni di organi accademici o comunque, quindi questa chiusa la parentesi. Certo, che non poteva magari essere risolta all'interno della struttura. Evidentemente è una decisione ben meditata. Per il resto c'è un certo conservatorismo nel corpo accademico italiano, in dubbio, e si manifesta ogni qualvolta vengono prese delle iniziative abbastanza dirompenti, come quella del Rettore Azzone. Chiaro, lui ha gettato un sasso nello stagno, non potrà essere trasferibile a tutti gli atenei, però è una indicazione molto importante. Posso solo aggiungere una cosa: non basta. Non basta, perché questo paese, anche a livello del ministro Profumo è sensibile, deve capire che abbiamo bisogno di snellire le procedure di accesso. Non può essere più facile entrare in Italia sbarcando a Lampedusa che non all'aeroporto di Milano per un studente straniero o extracomunitario, e abbiamo bisogno di ricettività adeguata. Non si può andare così in mano al mercato degli alloggi privati, che peraltro è gestito in lingua italiana, no, ed essere anche ospitali nei confronti degli studenti che dovrebbero venire a studiare da noi. Grazie, grazie al professor Braga. Abbiamo ancora un ascoltatore da Roma, Agostino, buongiorno. Buongiorno, senta, ho ascoltato la trasmissione e voglio soltanto fare una piccola osservazione. Prego. Il problema non è avere gli occhi puntati sul mercato e dire ai nostri giovani le opportunità del mercato. Con questa logica dell'obbligatorietà evidentemente si punta solo e si guarda al mercato. Forse noi dobbiamo pensare a formare i giovani, i quali ovviamente usufruiscono e hanno gli strumenti per muoversi nel mercato. E allora questa logica della obbligatorietà mi pare assurda. Cioè, mi faccia capire, Agostino, lei dice che è sbagliato che nel momento in cui si fa una scelta di questo tipo la si rende obbligatorio, dovrebbe essere facoltativa? No. Prima di tutto facoltativa, rivolti ad altre lingue, sempre in relazione al mercato, ma la prima cosa è formare gli studenti, formare l'uomo. Dopo l'uomo arrivano i mezzi tecnici per fare in modo che possano meglio inserirsi nel mondo del lavoro. Questa è la mia esperienza di docente di 40 anni. Con tanti saluti evidentemente al rettore e al rettorato di Milano che ha imposto questa scelta, e speriamo che il TAR dia ragione a un'altra cultura. Ecco, questa in logica. Questa cultura lei non crede che invece si rischi una, appunto, penalizzazione poi reale di fatto delle possibilità di questi studenti che si vanno a formare? E anche degli insegnanti, devo dire, tra l'altro. Intanto la ringrazio per questa sua osservazione. Il problema nostro è quella di far sì che gli studenti possano avere un ventaglio di scelte, e questo voler per forza fermarsi all'inglese significa voler colonizzare tutto sulla lingua inglese. Invece noi dobbiamo dare più strumenti agli studenti, ampliarlo, e non solo l'inglese. D'accordo. E poi soprattutto lasciare a loro la libera scelta, ma l'insegnamento, che è anche un mezzo di formazione, deve essere in lingua italiana, come ha ricordato Agostino. La linea sta cadendo, ma direi che il concetto è chiarissimo. Ringrazio lui, ringrazio gli ascoltatori, e vorrei concludere con il rettore del Politecnico di Milano. A questo punto cosa succede? Si procede, naturalmente c'è diciamo la parte che è stata citata, che riguarda il ricorso al TAR. I vostri progetti dunque prevedono inizio 2014, si parte. Sì. Noi abbiamo deciso 2014-2015, mi faccio solo aggiungere una considerazione. Prego. Sono assolutamente d'accordo col professor Braga sul fatto che questa non è una ricetta per tutti gli atenei, anzi l'autonomia universitaria dovrebbe proprio spingere a modelli differenziati tra i diversi atenei. Credo che in Italia ci siano diverse scuole di ingegneria e di architettura, come diceva l'ascoltatore di prima, gli studenti possono andare a scegliere di formarsi in ingegneria e architettura in università che scelgono corsi in italiano, in università che scelgono corsi in inglese. La loro autonomia, per fortuna, è rispettata. Però l'introduzione del modello del Politecnico credo dia una possibilità in più che altrimenti i nostri studenti non avrebbero. Grazie, grazie di essere stato con noi. Lo ricordo, Giovanni Azione, il professor Giovanni Azione, è rettore del Politecnico di Milano. Non so se abbiamo ancora Art Ehring in collegamento. Vorrei concludere, abbiamo parlato di come l'Olanda si sia portata avanti in questo tema che oggi diciamo l'Italia affronta. Vorrei chiedergli allora quali sono stati i risultati, visto che da 15 anni che si impone un bagno di cultura olandese agli stranieri. Come vanno le cose, quali sono i risultati? Beh, ormai per quanto riguarda questa rete, questa è ancora giovane, però posso dirvi che ci sono in vari paesi del mondo, ci sono adesso dei ministri, dei grandi alti funzionari che parlano almeno un po', alcuni molto bene l'olandese, e che mantengono un buon ricordo all'Olanda. E allora sono persone a cui noi ci possiamo rivolgere. Ecco, in questo caso è stato veramente un investimento culturale, perché lo ricordo ancora una volta, non stiamo parlando di università private, stiamo parlando del sistema pubblico. Sì. Ma non solo, anche per gli studenti stessi, gli studenti olandesi tutti fanno dei corsi in inglese, cioè per esempio ma c'è anche una cosa tipo un corso di storia patria, quella non si fa in inglese, ma per il resto in tutte le facoltà fanno inglese. Il risultato è che gli studenti olandesi adesso parlano un ottimo inglese, molto meglio di quello che ho imparato io più di 30 anni fa. La storia patria rimane in olandese anche in Olanda, grazie ad Art Ehring, lo ricordo, ha detto la politica e rapporti con la stampa per l'ambasciata olandese, grazie al professor Dario Braga, prorettore della ricerca all'Università di Bologna, al rettore del Politecnico di Milano, il professor Giovanni Azzone. Grazie anche al nostro ospite londinese di questa mattina, Robert Fox, giornalista esperto militare per il quotidiano Evening Standard, che festeggia il doppio oro. Grazie soprattutto a tutti voi che siete stati all'ascolto, che avete partecipato, che continuate a farlo attraverso gli SMS. E abbiamo chiuso 8:58:30, tempo di GR24, poi naturalmente l'appuntamento con Oscar Giannino. Domani.